spalle compagni delle donne. E Firenze germoglie dalle stelle, voce canta baciando piazza Santa Croce, e il suo canto è si dolce, si sonoro, che a lui sono scesi i ruscelletti d'oro. Così scendam bidotti in arti e scienze a farvi unita e splendida Firenze. E di Valdessa giù dalle Castella, a ben venga l'olfa far la torre bella, e venga giunto dal Mugel selvoso, e il medici mercante coraggioso. Basta con gli odi gretti e coi ripicchi, viva la gente nova,